Aspetta. Comincio a registrare ora, quindi allora siamo con Daniele Chieffi, fondatore di Be Wise, di un sacco di altre cose, autore di tanti libri, ex Eni, ex qualsiasi cosa. Ex qualsiasi cosa, io sono ex, punto. Esatto. A una certa età si diventa ex universali. Sì, per parlare di come cambiano le comunicazioni di crisi in era online. Tra l'altro hai scritto di recente un libro su questo che si intitola Crisi reputazionali ai tempi dell'infosfera. Ecco, perché hai sentito l'esigenza di scrivere questo libro? Questa è una bella domanda, perché in realtà io ho vissuto un'esperienza molto forte che è stata in Eni, da un punto di vista del crisis, è stata quella di affrontare report, la trasmissione di giornalismo investigativo nel 2015, poi nel 2017, poi mi sono trovato a riaffrontarlo anche quando ero al Ministero, insomma, quindi la mia storia, c'è una battuta dicendo sei tu che insegui report, il report che insegue tu, ma insegue te, ma questa è una... Sono qua una fuori. Butad, sì, esatto, sì, sono sicuro. Quell'esperienza mi ha fatto capire che in realtà il concetto di crisi di comunicazione di un'azienda non è più quello codificato nei manuali standard, perché tutti i manuali standard di crisi partono da un presupposto, che la crisi sia una crisi basata sulle informazioni, no? Cioè qualcuno fa circolare una notizia rispetto a un'azienda, a un personaggio, a un'organizzazione, quello che volete, che questo soggetto ha fatto qualcosa di non giusto, di non corretto, di scorretto da vari punti di vista, e allora il soggetto chiamato in causa normalmente agisce modificando il flusso informativo, quindi o dando delle giustificazioni o correggendo le notizie o aggiustando in qualche maniera il quadro di riferimento di questa notizia. Quello di cui mi sono reso conto è che in realtà oggi le crisi tutte sono ben lontane da essere crisi basate su informazione e su contenuto, ma sono tutte crisi basate su percezione e psicologia. Percezione e psicologia di chi? Non dei giornalisti, non dei soggetti coinvolti nelle crisi, bensì direttamente dei pubblici che assistono a quello che sta accadendo. L'esempio di Eni versus Report, con cui inizio il mio libro e da cui poi è nata anche l'idea ormai tanti anni fa di scriverlo, mi ha portato ad avere a fare un'osservazione. Faccio un breve riepilogo del caso in modo che riesca a essere il più chiaro possibile. Nel 2015 Eni e i suoi manager vengono accusati dalla Procura della Repubblica di Milano di aver versato una ingentissima tangente, parliamo di 1,3 miliardi di euro, quindi non esattamente due lire, ad alcuni notabili nigeriani per aggiudicarsi un campo petrolifero appunto in Nigeria. L'inchiesta fa molto rumore, ovviamente, perché non solo mette sotto inchiesta l'amministratore delegato di allora, che è ancora l'attuale, cioè Claudio Scalzi, ma mette sotto inchiesta l'azienda in quanto tale. Report sale a bordo di questa cosa e decide di fare un ampio servizio raccontando il caso Nigeria, Nigeria Gate, quello che loro chiamano Nigeria Gate, e ci chiedono un'intervista a De Scalzi. Quindi stiamo parlando della fine del 2015, ci arriva questa richiesta da Report di intervista all'amministratore delegato, e noi ci rendiamo assolutamente conto in quel momento che non avevamo strade, scelte. Perché? Perché il format di Report, che è tuttora come l'attuale, non prevede un dibattito. Cioè non è che tu fai un'intervista all'amministratore delegato, la Gabanelli che ai tempi conduceva fa l'intervista e l'amministratore delegato può ribattere in diretta. Sono interviste registrate che vengono post prodotte, quindi tagliate, normalmente ad arte, in modo da far sì che quell'intervista faccia emergere le contraddizioni di quello che dice l'intervistato, o viceversa sia in qualche maniera a sostegno di una tesi. Non potevate neanche vedere i tagli? No. Noi avremmo... E quindi neanche il frame, perché comunque partiva da un frame. Neanche quello. Quindi noi ci siamo trovati di fronte a una situazione in quale sapevamo che la trasmissione avrebbe mandato in onda oltre 40 minuti di servizio televisivo di fronte a circa 3 milioni di spettatori, E noi avremmo avuto come unica possibilità di risposta, gestendola dal punto di vista informativo, e qua è il nodo, praticamente il comunicato stampa del giorno dopo. Cioè noi avremmo dovuto fare una nota stampa che sarebbe andata ai giornali, i quali l'avrebbero più o meno pubblicata, che avrebbe preso alcuni elementi del servizio, non tutti i 40 minuti, perché sarebbe stato tecnicamente impossibile, sarebbe stato un libro, non sarebbe stato un comunicato stampa, smentendoli con la sintesi necessaria di un comunicato stampa, quindi senza avere la possibilità di fornire degli elementi di fatto che pure noi eravamo convinti, anzi avevamo la contezza di avere. E ci fu questa riunione molto, molto agitata dell'ufficio comunicazione di Eni, nel quale eravamo tutti molto arrabbiati, perché la premessa è che noi eravamo convinti dell'innocenza sia dell'azienda che del nostro amministratore legato, tant'è vero che nel 2021 sia Eni che De Scalzi e tutti gli altri manager coinvolti sono stati assolti con formula piena e la procura non ha neanche fatto ricorso, per cui la cosa si è sgonfiata completamente, questo anche a favore dell'etica, no? del nostro lavoro. Quindi noi eravamo convinti, quindi immaginate la scena, un gruppo di comunicazione fatto da professionisti anche molto esperti, ai tempi il direttore della comunicazione era Marco Bardazzi, ex caporedattore della Stampa di Torino, giornalista di lunghissimo corso, aveva ben chiaro quale sarebbe stato l'impatto, no? E tutti quanti noi avevamo chiaro quale sarebbe stato l'impatto. Quindi immaginate la frustrazione, cioè quello di sapere di andare verso una sorta di massacro programmato senza avere le armi neanche per dire la nostra. A un certo punto io alzai la mano in riunione, immaginate erano una quindicina di persone, alzai la mano dicendo: ragazzi scusate, ma a questo punto, visto che loro non ci hanno il diritto di replica, prendiamocelo, c'è il second screen, perché Report ha questo second screen, cioè questo hashtag Report su Twitter estremamente frequentato durante la trasmissione, era il second screen più popolato dopo le trasmissioni di intrattenimento, quindi dopo Sanremo e dopo X Factor, non mi ricordo se già esistevano, comunque dopo le trasmissioni di quel genere era sicuramente il più frequentato. E dissi: scusate, rispondiamogli sui social, cioè rispondiamogli in diretta mentre loro hanno appunto in diretta in trasmissione. Immaginate un attimo là, no? Tutti che mi hanno guardato un po', come Marco Bardazzi, bisogna dirglielo, no? Bisogna riconoscerglielo. Mi ha guardato, ha fatto, dice: ma sai che non è una cattiva idea? E da lì nacque, mettemmo a terra la strategia. Quindi noi che cosa decidemmo di fare? Decidemmo di rifiutare l'intervista video e di farci mandare le domande scritte, alle quali rispondemmo per iscritto. Quindi ci arrivarono 7 domande molto complesse, molto articolate, alle quali rispondemmo con dei testi molto lunghi, altrettanto complessi e articolati. Quei testi noi sapevamo perfettamente non sarebbero mai stati letti in trasmissione, perché erano antitelevisivi per definizione, no? Immaginate la Gabanelli che si mette a leggere un foglio, anzi 3 fogli a 4 scritti fitti, con... no, impossibile. Ma ci servivano per che cosa? Perché noi così avremmo saputo che temi avrebbero affrontato nel servizio, e le risposte che noi ovviamente abbiamo mandato alla redazione, prima di mandarle le abbiamo fatte approvare a tutto il circuito del management dell'azienda, per cui noi avevamo un testo che potevamo utilizzare pubblicamente, perché è già ampiamente smarcato. Vi assicuro che ottenere le approvazioni interne di un'azienda come Eni, ma anche di team, di un testo del genere, in una situazione del genere, con un tempo così ridotto rispetto a quando, il giorno dopo, quando sarebbe, sì, rispetto, no, a quella riunione, una settimana. Comunque una settimana è veramente poco per riuscire ad avere, sì, un'approvazione su tempi. Quindi io, se dovessi dire eroicamente, forse la parte più importante del lavoro è stata quella, sì, sì, perché ognuno doveva assumersi la responsabilità di queste risposte su temi dove ciascuno avrebbe avuto un danno reputazionale, no? Quindi, esatto, io ho dei problemi su testi molto meno preoccupanti per la mia azienda, quindi... Beh, lì fece buon gioco. A questo proposito ti do ragione, perché le aziende complesse da questo punto di vista sono un buco nero quando si tratta di autorizzare cose. Lì fece buon gioco il fatto che per primo De Scalzi era furibondo per questa cosa, per cui lo stesso amministratore delegato si, cioè, a volte devi si prendere, appassionò alla cosa, no? Devi prendere la piramide, perché l'azienda è una piramide, non è democratica, no, è gerarchicamente strutturata, la prendi e la rovesci, cioè ciò che normalmente è complicato è arrivare verso l'alto, se tu hai il coinvolgimento del vertice puoi rovesciare la piramide, esatto, come Maslow, esatto, e la tiri giù, e quello che dice a quel punto l'amministratore delegato committa, perdonami, impegna individualmente tutti quanti all'ottenimento del risultato. Quindi paradossalmente è uno dei vantaggi di quelle micro dittature che sono, esatto, le nostre aziende. Quindi noi decidiamo e costruimmo cosa? Costruimmo una sorta di copione. Cioè noi prendemmo per ognuna delle domande che ci avevano fatto, costruimmo dei testi che poi diventavano dei tweet, quindi costruimmo dei tweet i quali avevano tutti un link a una pagina del sito istituzionale dove costruimmo un intero dossier nel quale mettemmo tutte le informazioni possibili e immaginabili riguardo a questa cosa. E guardando le altre puntate di report studiamo proprio anche i tempi, cioè come erano i ritmi, quando rientrava in studio la Gabbanelli, come, che tipo di commento faceva a metà servizio, come rilanciava la seconda parte del servizio, cioè studiamo proprio un piano di battaglia, cioè in effetti facemmo un'operazione militare, se volete. E quindi quando ci fu il giorno della messa in onda, che era una domenica sera tra l'altro, ci riunimmo tutti in una war room. Eravamo noi, il mio team di comunicazione digitale, il management, l'ufficio stampa, l'IT, perché dovevamo essere sicuri che fosse tutto assolutamente a prova di bomba da un punto di vista tecnologico, ovviamente il legale, cioè tutte le strutture che ci potevano servire per gestire questa. Partì la trasmissione e sulla sigla noi mandammo il primo tweet che diceva dall'account ufficiale di Eni utilizzando l'hashtag report, quindi entrammo in casa loro praticamente dicendo: oggi report parlerà di noi, se volete sapere tutto, anche quello che loro non vi diranno, cliccate qui verso la pagina del sito istituzionale. E da quel momento in poi qualsiasi cosa veniva detta in diretta noi avevamo il tweet pronto. Per cui immaginate che il giornalista diceva: ah, allora Tizio e Caio era andato dal faccendiere nigeriano a fare questa cosa, e noi usciamo immediatamente con un tweet dicendo: non è vero, questa è la prova. C'è un elemento di questa cosa sulla quale io batto molto, ed è il motivo per cui poi alla fine è nato il libro. Noi facemmo, vi ripeto, la pagina, poi le tante pagine, che è un dossier intero sul sito istituzionale, e una grande quantità di tweet durante la trasmissione. I tweet fecero circa 19 milioni di opportunity of view, quindi stiamo parlando di una quantità di visibilità sui social molto elevata. Il dossier sul sito fece 416 contatti. Questo numero mi è rimasto stampato in testa, cioè 20 milioni di opportunity of view, quindi noi avevamo 5 milioni di utenti unici, tassi di engagement spaziali, roba che un'azienda come Eni non si sognava neanche di notte nei migliori, no, momenti di follia, cioè numeri da Cristiano Ronaldo, no, una cosa del genere, cioè roba pazzesca. 416 persone solo erano andati a vedere quello che noi avevamo scritto in maniera molto divulgativa, giornalistica, cioè utilizzando il linguaggio giornalistico, sul sito istituzionale. Allora lì io mi posi un dubbio. Cosa era successo quel giorno? Noi non avevamo modificato il set informativo del nostro pubblico, cioè noi non avevamo trasmesso delle informazioni in più. Avevamo cambiato la percezione del pubblico, cioè il fatto che noi avessimo risposto in maniera così spettacolare, in maniera così, anche se volete, coraggiosa, assertiva, no? anche un po' arrogante, se bold. Volete, esatto, un po' bold, aveva innescato due cose: un dubbio nell'attendibilità dell'inchiesta di report e in generale nella credibilità di report, perché Perché le persone sono chieste, ma se loro hanno avuto la forza e il coraggio di fare una cosa del genere, evidentemente qualcosa da dire ce l'hanno, perché altrimenti non è se buttano come dei suicidi, noi dici, sai, sono dei pazzi, no, è Eni, per cui se lo fa Eni evidentemente qualcosa da dire ce l'hanno, no? Dall'altra parte, e quindi l'incrinatura della certezza granitica, della verità che, di cui Report era portatore, lì ci fu, in maniera molto netta. Dall'altra ci fu una potentissima polarizzazione nei nostri confronti, in senso positivo. Cioè, le persone cominciarono ad apprezzare la nostra scelta, indipendentemente da quello che, di cui noi eravamo portatori. Io questa cosa vorrei sottolinearla. Cioè, quello che fece notizia era il metodo, non il contenuto. Non il contenuto. Su questo io, diciamo, ho una mia... ci voglio, diciamo così, applicare un po' la mia ossessione relativa alle discussioni che crescono rapidamente sui social e che non hanno a che fare molto con il merito della questione. No, tutt'altro. Hanno sicuramente a che fare con il metodo, come dici tu, però hanno anche molto a che fare con le leve identitarie, nel senso che anche prima di Eni versus Report, anche prima di quella puntata, Report si era guadagnata in una certa area di pensiero la fama di protettore dell'individuo contro le ingiustizie, no? E quindi fondamentalmente la grande leva del successo di quella trasmissione era diciamo così, il bashing, così viene chiamato in termini di comunicazione, cioè lo sculacciamento di qualsiasi potente davanti a un pubblico molto, molto numeroso, e il che naturalmente in tantissimi casi, io per primo dico, io guardo Report e faccio il tifo per la Gabbanelli adesso, e quindi, come dire, ecco una trasmissione che mi piace, no? Perché mi metto in poltrona, bello tranquillo, e dico che bello, questi vanno a fare, perdonatemi il termine, vanno a fare il al potente di turno, col microfono nascosto, con la ripresa, poi, cioè, trasmissione sotto questo profilo tecnicamente straordinaria, tra l'altro prodotta completamente in outsourcing, cioè non dipende in alcun modo dalle redazioni giornalistiche della RAI, quindi è un prodotto realizzato, diciamo così, da una terza parte, un format, cioè c'è proprio una società dietro, insomma, quello che chiameremo noi un progetto di comunicazione, no? Con questa terminologia. È vero. E che cosa avevano fatto loro? Puntando molto tra i primi sul second screen, in realtà gran parte del successo sul secondo schermo, quindi sugli schermi che teniamo in mano quando guardiamo Report, di questa trasmissione nasce proprio dalla polarizzazione tra il mondo, diciamo così, dei Robin Hood della situazione, di chi incarna questo ruolo, quindi tifiamo tutti nella curva, no? Per il debole, e quindi in quel momento contro il potente che viene messo sulla griglia, e però anche un altro mondo che già dall'inizio della trasmissione di volta in volta prendeva le parti anche del potente, che è una dinamica questa che ormai vediamo in quasi tutte le forme di polarizzazione, cioè da una parte chi si scaglia contro, diciamo, la casta, dall'altra un pubblico ben pensante che o si sente parte dell'establishment o vuol far credere di esserlo. Esatto. Potremmo dire i wannabes dell'establishment, che sono molti più numerosi dei veri potenti, no? Quindi noi quella che vediamo molto spesso è questa dinamica, e lo vediamo anche per esempio nelle proteste che ci sono adesso nelle università, no? Con gli studenti, prima di mettersi a discutere di Palestina, Israele, finanziare o meno la ricerca universitaria, le armi, tutti questi discorsi che sono il cuore della questione, il tema di fondo è: ma questi ragazzi stanno lì e si prendono l'aperitivo, si divertono, perdono tempo invece che studiare, da un lato, e dall'altra parte invece chi simpatizza, no? Che poi è un tema che affronteremo nel pomeriggio, perché l'articolo che ho deciso di deframare è quello di Stefano Cappellini, che avrei letto, esatto, che lo facciamo anche vedere a video di nuovo, così lo vediamo se sta ancora qua. No, l'ho tolto, meglio così, meglio perché così poi dopo ci lavorate meglio, no? E allora questa dinamica tra, diciamo, pro-establishment e anti-establishment, che è quella che funziona meglio, è uno dei motivi per cui dietro questa parola report ci sono sempre dei volumi di conversazioni che da soli vendono spazi pubblicitari, certo, e da soli abilitano una certa, diciamo così, forma di, possiamo chiamarlo informazione, infotainment, chiamatelo come volete, secondo me fanno anche un ottimo lavoro sotto tanti punti di vista. In questo caso diciamo che si sono fatti tentare dalla grandezza del bersaglio, cioè hanno puntato al bersaglio grosso, e il bersaglio grosso pensavano che fosse un pachiderma, un mastodonte immobile, incapace di capire l'evoluzione, invece sono stati, diciamo, sorpassati a destra, mi verrebbe da dire proprio questo. Quindi questa logica identitaria, cioè il fatto di capire che comunque avremmo avuto una curva nord e una curva sud, in che modo ha, diciamo così, orientato queste vostre scelte di gestione di quella situazione? L'ha orientate molto, perché in realtà noi eravamo consapevoli che avremmo polarizzato, no? Era abbastanza chiaro. Ma avremmo sicuramente sorpreso anche la controparte. Cioè noi il gioco che abbiamo fatto in quell'occasione non è stato tanto, passami il termine, gestire la polarizzazione nel senso innescarla per poi cavalcarla, no? Cosa che per esempio nella storia della comunicazione ha fatto Motta con la pubblicità dell'asteroide, piuttosto che Nike con quella di Kaepernick, che hanno scelto una parte, l'hanno abbracciata e poi si sono non preoccupati, o meglio, consapevoli che avrebbero creato appunto una polarizzazione. Noi quello che abbiamo cercato di fare è stato quello di compattare la controparte rispetto ai Robin Hood, a chi si sentiva a sostegno dei Robin Hood. Cioè quello che noi abbiamo deciso, in parte consapevolmente, in parte inconsapevolmente, questo no, devo confessare, è stato quello di compattare tutti quelli a cui i report o non piaceva o non ci si riconoscevano o per qualche motivo si sentivano minacciati da loro. Ma forse magari i report in sé l'avrebbero continuata ad apprezzare, non fosse che sul secondo schermo un sacco di persone che loro detestano, esatto, sarebbero diventati fan. E allora, siccome diventa fan chi tu detesti, esatto, esattamente, finisci per schierarti dalla parte della trasmissione. Della trasmissione, siamo perfettamente d'accordo, andò così. Il dato più rilevante che noi ci portammo a casa sono sostanzialmente tre i dati rilevanti. Il primo dato fondamentale è che il giorno dopo della tangente nigeriana sui media non c'era traccia, cioè non c'era una riga, me li sono guardati tutti, non c'era una riga di nessun giornale che riportava neanche il titolo del servizio. Questa cosa che non avevo mai potuto prevedere, questo è ovvio, lo confesso in maniera trasparente, però questo ha dato il senso della potenza del lavorare non sul contenuto ma sul percepito. Questo è quello che mi ha insegnato l'esperienza, no? Cioè il fatto che noi abbiamo, in realtà, se ci pensate un attimo ragazzi, noi abbiamo messo in piedi uno spettacolo. E qui The Boar. Noi abbiamo messo in piedi uno spettacolo. Lo spettacolo di una grande azienda che, come diceva Antonio, era percepita come elefantiaca, ferma, immobile, no? Di un dinosauro, che improvvisamente si era rivelata essere invece la più moderna, la più attiva, la più reattiva e la più coraggiosa delle partecipate di Stato, ma in generale di tutte le aziende, che si era messa a combattere contro un'altra partecipata di Stato, perché questo non lo dimenticate, cioè la partita Eni Report in realtà è stata una partita Eni Rai, quindi due aziende di Stato che si scontrano, quindi anche quello da un punto di vista mediatico ha una potenza enorme, se ci pensate. Ma la cosa fondamentale è che noi abbiamo probabilmente per la prima volta realmente intercettato la modalità concreta ed efficace per gestire una crisi di comunicazione nell'evo moderno, come lo chiamo io. Perché oggi è così che si gestiscono. Cioè le crisi oggi non sono crisi la Ferragni. non è una crisi legata a contenuti informativi. La sua non è una crisi legata a delle informazioni. L'informazione è una: ha beccato una sanzione dell'antitrust, punto, che certifica il fatto che lei abbia più o meno giocato nella zona grigia del rapporto fra marketing e solidarietà. Punto. Questa è la, non c'è altro da dire. Qual è l'innesco e la delusione di stakeholder e audience? È il senso di tradimento vissuto da stakeholder e audience? È il rancore covato per anni dalla controparte? Non aspettavano altro che un passo falso della Ferragni per scagliarsi contro. È il crollo e l'esplosione della sua bolla etica che le permetteva di noleggiare un supermercato dell'Esselunga per fare il compleanno del marito, o di farsi portare in elicottero solo al Cervino, o di far vedere la sua casa più grande del campo di calcio, facendoglielo in qualche maniera perdonare? Perché glielo perdonava? Perché il suo pubblico glielo perdonava? Perché lei era la paladina dei diritti, perché lei faceva beneficenza, faceva solidarietà. Quindi lei viveva in una sorta di bolla etica che la proteggeva dagli haters, no? dalla polarizzazione contraria. Saltata quella, è ovvio che a quel punto la marea ti travolge, no? È come una diga che si rompe. Allora, se provo a ricostruire, no, quella cosa che dicevamo prima dei wannabes dell'establishment, nel caso Ferragni, non so se vi ricordate, l'altro giorno abbiamo parlato delle polemiche sulla Ferragni quando fu, diciamo così, collaborator, si dice testimonial, di Schmidt agli Uffizi, si fece vedere davanti alla Venere del Botticelli. Si scatenò poi un dibattito che non era in sé sulla Ferragni, era: ma davvero vogliamo ridurre la cultura, siamo ridotti a portare la influencer, dando per scontato, quindi con tutta una serie di pregiudizi, che ci fosse dietro la vuotezza, che ci fosse la superficialità, che ci fosse un pubblico di idioti che la segue, no? Cioè, dietro tutta una serie di pregiudizi sul pubblico che seguiva e ammirava la Ferragni, no? Quindi era l'opportunità per colpire non tanto la Ferragni, ma per colpire questa grande massa di persone con cui normalmente tutti abbiamo a che fare, certo, sui social. E quindi tante persone negli anni si abituano a odiare questo mondo pregiudizievole di approssimativi, di dilettanti allo sbaraglio, di gente che adora il lusso anche se non se lo può permettere. Cioè, capite bene gli immaginari che muoveva Ferragni, no? Quindi chiaramente il rancore, perché la famosa bomba che esplode è quando si apre l'opportunità, tu dai a una delle due curve, la curva nord, un'occasione straordinaria per colpire la curva sud. Quindi questo per far capire che alla fine anche la capacità di sollevare grandi volumi di conversazioni, che è esattamente ciò che viene remunerato, sta nella capacità di cavalcare, questa è la parola che usiamo sempre, la facile disponibilità di un pezzo del paese di mettersi contro un altro pezzo del paese. Esatto. Questo accade a tutti i livelli. E l'abbiamo visto anche nella famosa tabella, che non è nulla di granché innovativo, accade sul digitale, ma è soltanto potenziato dall'algoritmo, dalla rapidità, cioè, rispetto a quello che da sempre fanno i talk show televisivi, no? Da sempre fanno i reality, no? Nei reality c'è quello che sta lì proprio per farsi prendere in giro e farsi odiare da qualcun altro, no? Quindi possiamo tornare fino a Nerone e a Gladiatori. Ma molto più semplicemente, quanti di voi non sono nati a Roma e sono nati in paesi piccoli? Uno, due, tre, quindi ragazzi, la piazza del vostro paese vi conoscete un po' tutti, no? Avete le varie fazioni, cioè quello che sta simpatico a quello che sta antipatico a quell'altro, quello che non mi faccio vedere in giro, perché la polarizzazione rispetto a determinati temi è qualcosa che ci appartiene umanamente da sempre, no? Cioè è parte della nostra natura prendere una posizione, ma fosse anche mi piace o non mi piace, no? Cioè fosse anche antipatico, simpatico e quant'altro vi può venire in mente. Noi abbiamo sempre, da sempre, una posizione binaria, ce l'abbiamo nelle piccole comunità, ce l'abbiamo nei piccoli gruppi, nelle comitive, adesso non so se si usano più, no? Dai nostri almeno ai miei tempi c'erano le comitive di amici e c'erano sempre, no? Un po' le fazioni, chi seguiva un leader, chi seguiva un altro, ed è parte della nostra natura. Cosa è cambiato? Che questa dinamica si è trasferita in blocco, insieme a tante altre, dentro le dinamiche di comunicazione, o meglio, il digitale ha costruito quella sorta, è diventata una sorta di piattaforma abilitante alla trasposizione netta, di delle dinamiche socio-psicologiche dal contesto reale a un contesto globale. Oggi noi, voi siete giovanissimi e magari non ve ne rendete conto, come diceva McLuhan, non siete consapevoli dell'acqua in cui nuotate, no? Però oggi è tutto basato sull'interazione digitalizzata, ma l'interazione fra le persone, e queste dinamiche di tipo sociale si trasferiscono, sono trasferite nelle dinamiche di comunicazione normale. Cosa comporta questo? Comporta che tutto ha motori psicologici di massa, perché questa è la differenza grossa, che noi dici, sai, la psicologia cognitiva del singolo è proprio una questione di gruppo di massa, e questo ha influenze su come un personaggio come la Ferragni riesce a muoversi in un certo tipo di contesto divisivo e polarizzato, ha un'influenza netta su come Eni sia riuscito a gestire quella storia, ha un'influenza netta su come Armani sia riuscito a gestire una crisi che è evaporata e che sembrava essere definitiva, invece no, su come ciascuno di noi prende posizione su qualsiasi altra situazione. Allora, questo è il motivo per cui poi, come diceva giustamente Antonio, il volume delle conversazioni diventa rilevante. Ma io, no? Parlo molto del volume, perché alla fine della storia ciò che viene remunerato è il volume, cioè l'esposizione al pubblico nell'industria. E io ripeto sempre la prima frase che abbiamo detto alla primissima lezione, è il fatto che la creazione e la circolazione delle idee sia diventata un'industria, che possiamo chiamare editoria, non è una condizione data, no. È un fenomeno storico. Sì. Noi oggi diamo per scontato che debba funzionare e assecondare un modello economico, e quindi diamo tutti, anche individualmente, per scontato che se facciamo 1000 like abbiamo scritto qualcosa di valore. Esatto. Ecco. Il punto è che in una discussione come quella sulla Ferragni, l'indignazione fa esattamente lo stesso numero che fa l'esaltazione. Mm-hmm. Ok? E quindi, per esempio, nel momento in cui decidiamo di dare pubblicità alla nostra indignazione, adesso faccio un esempio forse più calzante che mi viene in mente, non c'entra con la crisi ma c'entra con la politica. Tutti quelli che attaccarono Salvini quando arrivò Carola Rackete con la Sea-Watch davanti a Lampedusa, tutti quelli che attaccarono Matteo Salvini fecero un favore gigantesco a Matteo Salvini, perché lui aveva bisogno semplicemente di essere percepito come l'uomo che ferma Carola Rackete. Esatto. Mentre accadevano intanto sbarchi liberi in altre spiagge della Sicilia proprio in quei giorni, ma questo non era visto, perché quello non alimentava una fabbrica dell'attenzione. Il palcoscenico l'aveva creato lui lì, mi verrebbe da dire che anche Carola Rackete ha contribuito, certo, a creare il palcoscenico, perché anche lei aveva bisogno della sua fan base, e indignandosi o contro la radical chic tedesca che vive nella casa piena di lusso eccetera, però poi si atteggia a salvatrice delle anime perdute nel Tirreno eccetera, oppure contro Salvini deficiente, cretino, che fa l'ice bucket challenge, che si fa vedere con le ragazze del papete eccetera, che in quel momento vuol far vedere di essere quello che ferma gli sbarchi e non ci riesce. Chiunque partecipa a questa roba partecipa alla costruzione del palco, e l'unica cosa che l'industria remunera in questo momento è l'esistenza del palco, cioè di un posto dove tanti occhi andranno ad atterrare. È vero. Il discorso delle crisi obbedisce esattamente. Allora, adesso, una volta capito che anche i buoni nelle crisi, anche quelli che fanno un grande lavoro nelle crisi, partecipano, certo, alla tossicità di tutto l'ecosistema, quello che ti chiedo è: esiste a un certo punto una soglia di tollerabilità per la società di questo sistema, superata la quale si potrà fare marcia indietro? E poi la subdomanda che ti faccio è: finora qualcuno ti ha fatto questa domanda? No, non me l'hanno fatta, perché è una domanda complicatissima. Allora, il problema è che secondo me la soglia non esiste, nella misura in cui la dinamica complessiva del sistema è questa. E non, io non vedo segnali di inversione di tendenza, anzi... No, ma anche se non li vediamo adesso, io ti chiedo di guardare quando Einstein va in Africa per vedere che effettivamente durante l'eclisse si vede che il pianeta è leggermente spostato, e quindi quella è la conferma di quello che lui ha solo teorizzato, la teoria della relatività. Io sono molto, molto, molto pessimista da questo punto di vista, ma pesantemente pessimista, perché io ho... Osservo due cose. Osservo il fatto che noi, tutto quello che abbiamo detto è molto vero, quello che dici sulla economicità, sulla commerciabilità dei volumi, mi trovo perfettamente d'accordo. Ma io registro un ulteriore cambiamento. Noi ci stiamo abituando a essere... siamo entrando in una fase di una nuova passività da un punto di vista dell'interazione con i contenuti, col mondo della comunicazione. Cioè, vi spiego velocemente, sono cose che dico sempre a lezione, perdonatemi se la ripeto, ma può essere utile. Allora, noi abbiamo vissuto da un punto di vista della struttura della comunicazione una prima fase che va praticamente dall'inizio, passando per Gutenberg, fino praticamente al 2007, luglio del 2007, quando Jobs ha presentato il primo iPhone, che si può definire l'era della comunicazione massmediatica, no? Cioè la dinamica di comunicazione da uno a molti, e noi eravamo dei soggetti passivi che ricevevano eravamo dei soggetti passivi che ricevevamo messaggi e non potevamo fare altro che riceverli passivamente. Non a caso, per esempio, il linguaggio del marketing ai tempi, se ve lo ricordate, se l'avete visto, ha sempre parlato di target. Il pubblico era un target. Analizzate semanticamente il valore della parola. Cioè, il target è un bersaglio immobile, incapace di reagire, no? Il tuo compito è semplicemente centrarlo o meno. Se lo centri, l'hai colpito e basta. La teoria del proiettile. La teoria del proiettile, esatto. Okay. Dopo il 2007 noi siamo entrati in una seconda fase, che è quella dell'ingaggio, la fase dell'engagement, la fase del prosumer, potete chiamare quella in cui improvvisamente noi diventiamo contemporaneamente attori e spettatori, o produttori e consumatori, nello stesso sistema di comunicazione. E questo ci viene permesso, dai, mi alzo perché non riesco a parlare. Questo ci è permesso dalle piattaforme digitali, dai social, perché i social hanno una caratteristica di innovazione potente, esatto, innovazione potente che tutti gli altri strumenti di comunicazione non hanno mai avuto. Cioè ci danno la possibilità non solo di produrre informazioni e di metterle in rete, ma di interagire fra di noi e sui contenuti stessi, il che vuol dire che noi diventiamo parte della produzione del ciclo dell'informazione. Perché noi, quando modifichiamo un contenuto sui social, di fatto aggiungiamo una parte di valore, lo modifichiamo, quindi diventiamo parte, no, della costruzione del significato, per esempio, di quel contenuto. E fin qui non c'è una data precisa, ma si sta cambiando molto l'approccio. Non so se poi tu sei d'accordo, Anto, su questo. E quello che alcuni teorici stanno cominciando a descrivere come la TikTokizzazione della comunicazione, una parola orribile, però va bene. In che cosa si basa? Qual è la caratteristica? Il fatto che noi tendiamo a non voler più partecipare alla costruzione del contenuto, ma tendiamo ad assistere a contenuti prodotti da terzi e scelti da terzi, nello specifico gli algoritmi. TikTok è esattamente questo, cioè TikTok è portato alle estreme conseguenze. Portato alle estreme conseguenze. E io dico, è una passività votante, la chiamo io. Perché votante? Perché in realtà noi, il nostro modo di interagire con i contenuti scelti dagli algoritmi e proposti sulle piattaforme come TikTok, come Netflix, come Disney Plus, come qualsiasi piattaforma di convenienza, noi votiamo, noi interagiamo, votiamo, ci piace o non ci piace, lo scegliamo o non lo scegliamo, mettiamo un pollicione piuttosto che un cuore, quindi è una passività votante. Questa passività votante, se la leggiamo dal punto di vista di ciò che cerchiamo nel contenuto, ci sposta ulteriormente su un altro aspetto, perché noi non cerchiamo più informazione, noi cerchiamo emozione. Quando guardiamo i video di TikTok, noi siamo, è come se vivessimo una sequenza infinita di microesperienze. Fateci caso. Cioè noi viviamo il video che vediamo, scusate il bisticcio cacofonico di parole, viviamo il video che vediamo non tanto sulla base di quello che il video dice in sé, per la stragrande maggioranza dei casi, ma anche Geopop è pensata in questo modo. Noi scegliamo il video sulla base del tipo di emozione che ci regala, stupore, divertimento, coinvolgimento, quello che vi pare. Il che ci porta a dire, mi sta portando a dire, ma non solo a me, ma a tanti altri teorici, che stiamo passando dalla comunicazione all'experience. Cioè, experience nel senso inglese del termine, sapete che in italiano non c'è una traduzione letterale di experience, esperienza non è esattamente la traduzione corretta. L'experience è proprio, esatto. Aspetta, perché qui su questo mi hai fatto fare un link, poi perché ma io non a caso, cioè, mi hai voluto fare il tuo lavoro, mi hai fatto un assist. La leva principale che ci spinge a interagire con un contenuto, e questo per fortuna Annalise Mason l'ha capito già nel 2011-2012, non è più la fruizione del contenuto. Cioè TikTok ha portato alle estreme conseguenze qualcosa che era già chiaro da tempo, e cioè che il motivo per cui noi facciamo partire un video non è nemmeno dentro di noi l'aspettativa di vedere quel video, ma sapere che tipo di emozioni potrà generare la ricondivisione di quel video. E per arrivare alla risposta, so quali tipo di emozioni posso generare in qualcun altro, la famosa dimensione sociale del contenuto. Quanto tempo ci metto a capire che emozione posso dare a qualcuno ricondividendo quel video? I primi 30 secondi. Cioè il motivo per cui noi smettiamo di vedere il video non è perché, come si pensa ancora nei dipartimenti di comunicazione di tutte le aziende, no, un video più lungo di un minuto è noioso. Non è quello. È che non serve. Le persone non è che guardano il video dicendo... Perché se una persona vuole vedersi un seminario di un'ora di una cosa che richiede un'ora, se lo vede. Certo. Così come se vuoi binge watching, le persone se sono motivate a guardare una serie dall'inizio alla fine in una giornata, lo fanno. Quindi non è che è troppo lungo, non è quello il tema. Se la leva è la fruizione, questi ragionamenti aziendali non hanno alcun senso. Se la leva è invece la condivisione dell'emozione, che è largamente quello che succede, a quel punto conta soltanto il momento in cui hai capito che quel pezzo di contenuto potrà generare un'emozione in qualcuno che conosci. Per questo io qui, in questa, non ve l'ho inflitta fin dall'inizio, perché sennò c'è da venire, viene veramente il mal di testa. Questa è tutta la presentazione che si chiama From Meaning to Sense, ed era un keynote che abbiamo fatto a Pisa addirittura nel 2011, e appunto ricordandomi le crisi epilettiche degli studenti che erano lì solo per prendere crediti formativi, ho deciso di non farla più vedere tutta a tutti. Però questa parte qua invece, intanto, ecco, vedete, importantissimo capire la delega della funzione editoriale, cioè siamo tutti DJ per qualcun altro, no? E per anni la capacità di vedere le emozioni nel pubblico in diretta ce l'avevano solo i DJ, come David Guetta, per esempio, che capiva cosa mettere perché vedeva come funzionava la pista da ballo davanti a lui. Oggi la pista da ballo ce l'abbiamo con i big data. E quindi quello che succede è che quando Disney realizza Cenerentola, vende chiaramente i diritti a un canale televisivo, Cenerentola va in onda e nella nostra famiglia ciascuno di noi è colpito magari individualmente da un singolo aspetto del film, no? Per esempio la scarpetta di cristallo, la zucca che diventa una carrozza, eccetera eccetera. Io personalmente, essendo sempre stato terrorizzato all'idea di arrivare in ritardo, una cosa che mi rimase molto impressa quando ero piccolo era questa cosa che a mezzanotte finisce l'incantesimo e quindi diciamo che mi ha insegnato ad arrivare in orario. Però queste, diciamo, versioni verticali del contenuto universale imposto dall'alto, dalla grande major cinematografica, dalla Disney, queste personalizzazioni, cioè il nostro senso individuale legato a quel contenuto, non era condivisibile tra di noi. Al massimo discutevamo dopo aver visto il film, no? Però tendenzialmente eravamo tutti legati a una storia, che è la storia, il significato universale della storia. In questo caso direi una storia di riscatto sociale, cioè una persona che conduce una vita molto umile e che ha, diciamo così, avrebbe tutti i numeri per vivere una grande favola, per diventare felice, ma c'è tutta la società, la micro società della casa in cui vive e tutta la società intorno a lei che, se non interviene la magia, non è in grado di sbloccare la felicità. Interviene la magia tramite, appunto, la zucca che diventa una carrozza e lei riesce a diventare felice per qualcosa di totalmente deresponsabilizzante. Cioè, non è che lei compie un atto eroico per cui poi diventa felice. Interviene una magia a cui tutti attribuiamo un valore salvifico e giusto, perché lei era una persona anche bella d'animo. Certo. No. E quindi noi diamo per scontato fin dall'inizio che è lei che deve sposare il principe, non Anastasia, Genoveffa, la matrigna, cioè è evidente. Quindi, diciamo, per noi il fatto che intervenga un elemento magico deresponsabilizzante, no? È per questo che la storia ha un grandissimo successo. È lo stesso motivo per cui Roma-Lazio ha un grandissimo successo. Perché se vince la nostra squadra siamo felici e non è stato merito nostro. Se la nostra squadra perde siamo infelici, ma non è comunque colpa nostra. Per questo il calcio tendenzialmente ha un grande successo storicamente più con gli uomini, perché gli uomini ne trovano la liberazione del ruolo di responsabile che la società gli ha imposto, no? Quindi invece adesso, per fortuna, il calcio attrae sempre più anche le donne, ma anche perché le donne nel frattempo sono diventate sempre più, o meglio, sono sempre state responsabili, ma ora questa responsabilità gli viene anche riconosciuta. Ancora troppo poco, purtroppo, però insomma. Però pensate a quanto questo cambi. E infatti la slide dopo. Le tecniche di comunicazione. Ci siamo messi d'accordo, proprio. Pensate a quanto questo cambi le tecniche di comunicazione. Cioè, immaginate che cosa significa passare. Pensate a me, no? Io nasco giornalista, divento poi comunicatore d'azienda e sono costantemente concentrato sul contenuto, la qualità del contenuto, la verità del contenuto, la forza del contenuto, ma quale forza? La forza informativa del contenuto, no? Tutta la mia formazione, ma tutta la formazione della comunicazione ancora oggi è completamente basata sulla forza del contenuto. Si continua a dire the content is king, cioè, sì, distribution is king, però è queen. Tu dici, però no, ma no. A sentire, no, dei colleghi che dicono the content is king e gli mettere le mani addosso, ma va bene, così andiamo avanti. E distribution is king, certo, è ovvio. Ma immaginate che vuol dire improvvisamente scoprire il caso di NS, osservati quello che mi hanno fatto scoprire, mi ci ha fatto scontrare direttamente. Immaginate che vuol dire scoprire che il contenuto in sé in realtà non ha un valore da un punto di vista tecnico, ma deve avere un valore da un punto di vista emotivo, emozionale, non solo direttamente su di noi, ma proiettato sulla dimensione sociale. Cioè, io devo cominciare a immaginare non solo il mio contenuto, ma la mia strategia di comunicazione. Ecco, su questo forse intervengo, così chiudiamo questa parte mutuata da questa vecchia presentazione. La Major Disney Corporation che produce Cenerentola continua a distribuire questo suo contenuto con la sua storia universale di grande successo che ha colpito tutti noi. Soltanto che oggi quello che può essere fatto con quel contenuto in una sfera sociale abilitata dalla transizione digitale è completamente diverso, cioè c'è un nuovo valore nella dimensione sociale che non viene normalmente remunerato al creatore originale del contenuto, cioè Disney Corporation. Esempio, io vedo Cenerentola su una qualsiasi piattaforma digitale, Netflix per esempio, vedo una scena, lei riesce ad andare al ballo perché la zucca si trasforma in una carrozza. La sera prima, parlando sui social media con una persona che conosco, mi faccio raccontare la sua storia personale. Sono uscito con quella ragazza che ti dicevo, siamo andati a cena, abbiamo mangiato un risotto alla zucca e poi la serata è andata bene. A quel punto io mi ricordo questa storia, gli prendo la clip della zucca che diventa una carrozza, gliela mando perché so che cosa significa per lui. Certo. Questo è un valore in più che non viene mai remunerato da una catena industriale presso la major originale. Quindi in questo c'è già intanto il remix, la cultura del remix che abbiamo già visto, cioè il fatto che il contenuto originale genera nuovo valore in tutte le istanze sociali che abilita. Ma poi soprattutto si passa da un paradigma a una via, cioè quando il contenuto veniva trasmesso da un'unica sorgente a tutti indistintamente, a un paradigma a due vie. Adesso qui non si vede bene, ma questo è un cavo LAN, non so, ho trovato un modo migliore per esprimere l'idea di una infrastruttura a due vie. L'infrastruttura a due vie è l'unico vero fattore innovativo, l'abbiamo detto quando abbiamo visto Pashin nella prima slide, vi ricordate, nella prima lezione, no? Pashin che restituisce consapevolmente un contenuto, quindi non è ciò che l'algoritmo ruba inconsapevolmente all'utente, no? Questa è una ricondivisione consapevole del contenuto e questa è la parte che scientemente tutta l'industria dei media, vecchi e nuovi, ha deciso di ignorare. Ha deciso di ignorarla perché chi prende le decisioni in questa industria sono vecchi babbioni come me e Daniele, vecchi boomer che vengono da una cultura broadcast, una cultura diversa. Sì, poi cerchiamo di studiare quello che cambia, però a nostra volta ci ritroviamo a parlare con persone che parlano un'altra lingua. Assolutamente, sì, così. E il concetto della cultura broadcast è quella che va superata. Cioè, tornando al rileggiamo quello di Antonio, tornando a quello che stavo dicendo prima, immaginatela. E voi, allora, da un punto di vista tecnico, è quello che dovete fare voi. Cioè, la comunicazione oggi ha una dimensione simbolica gigantesca e probabilmente l'elemento centrale che governa la dinamica dei flussi informativi è il simbolismo che siamo in grado di produrre e di costruire. Perché? Perché il simbolo è ciò che ci evoca percezione, ciò che evoca emozione, ciò che ci produce emozione. Simbologia è intesa in senso ampio. Però costruire la comunicazione basata sul valore simbolico di quello che produciamo non è banale, perché significa per esempio che se entriamo in quest'ottica tutto ha valore simbolico, cioè valore simbolico il singolo contenuto, ma valore simbolico, prendiamo il video della Ferragni, no? L'avete visto tutti, il video della Ferragni è fatto da una lunga serie, esatto, una complessa serie di simboli. Perché ogni elemento di quel video, vediamola quando si scusa del balocco. Esatto, esattamente. Non so se lo trovo in un modo che si veda bene, però. Sì, quello lì, quello. La 7? La. No, Dailymotion. Dailymotion. Non lo vedo però. Ah, eccolo qua, sì, scusa. Così andiamo direttamente alla sorgente. Esatto, qua basta che lo fermi per cui. Sì, ok. Spero non ci sia la pubblicità pure qua. Certo, c'è una dicevo, adesso poi lo vediamo. 2-1, vai. Ciao a tutti, sono sempre stata convinta che. Me lo fermi un secondo, metti una pausa qualsiasi. Ma non vale di fare del bene. Allora, Guardate gli elementi simbolici di questo. Allora, cominciamo con... Questo, scusa, sto fermo fotogramma non le rende troppo no. giustizia. Ecco, forse okay. va meglio. Questo è un po' meglio. Guardate lo sfondo. Lo sfondo ha una particolarità, che non è solamente il cromatismo, ma questo. La copertina del divano ben piegata, la classica copertina quella che ci mettiamo quando vediamo le serie di televisione, no? Poi, l'abbigliamento grigio, il non colore, sapete che il grigio è il non colore, no? Nella pubblicità tutto deve avere un colore, se non vuoi comunicare nulla usi grigio, grigio chiaro, tra l'altro. Il non trucco. Lei non è vero che non è truccata, lei è truccatissima, molto truccata, ma è truccata in modo da sembrare non truccata, col capello raccolto, con le ciocche sapientemente alcune lasciate ribelli. Cioè tutto in questo video è studiato, tutto in questo video è simbolo. Perché è studiato da non farcelo sembrare studiato. Esattamente. Qual è l'obiettivo? Non è esattamente solo quello che lei dice, e come lei arriva, come ci arriva, l'emozione che ci provoca. E qua siamo di nuovo nel ragionamento che stiamo facendo io. Cioè, chi ha pensato questo video lo ha pensato non solo e non solamente, non esclusivamente, e quasi direi in maniera secondaria sulla base di ciò che lei dice, ma l'ha pensato soprattutto sulla base di come lei lo dice, come nel senso dal punto di vista della rappresentazione. Quello che lei dice è a sua volta un simbolo, cioè ha un valore, no? Ovviamente, ma ha un valore solo e solamente in combinato disposto con quello che noi vediamo. Allora capite che entrare nel ragionamento, in questo ragionamento, significa, per esempio, tornando all'origine del ragionamento della crisi, che io costruisco un video del genere non perché semplicemente voglio dare delle scuse, è perché io voglio in qualche maniera incidere sulla percezione che le persone hanno di me stesso, in questo caso del personaggio breve. Okay. È un'altra logica, è una logica profondamente più sfidante del cinema. Possiamo dire che quello che lei dice è che è del tutto trasparente, come abbiamo visto, per chi vede il video, serve più al giornale per raccontare la storia, sì, il giorno dopo? Sì. Perché il giornale ha bisogno di riportare ciò che lei ha detto, quindi è come se fosse su due livelli. Tu hai detto, infatti te lo so dire, tu hai detto una cosa fondamentale. Questo video è costruito per avere almeno tre livelli di lettura. Cioè parla a tre pubblici contemporaneamente, parla ai media col testo, perché i media necessariamente prendono il testo, parla alla sua fanbase, grazie, per il fatto stesso di uscire a parlare, e parla alla sua non fanbase perché il fatto di fare un video è un elemento di risposta alle critiche. Quindi sono tre livelli di lettura diversi. È talmente perfetto da però non funzionare. Perché, vabbè, questo è quello che ci hai raccontato quella volta alla Treccani. Esatto. E cioè che non funziona perché comunque sembra artefatto, non sembra autentico. E lo è in realtà, perché sì, sì. Io so per certo che questo è il quarto take. È il quarto take. Cioè c'era un set e questo è il quarto, cioè adesso non so se è proprio esattamente uno dei tre quattro, cioè hanno fatto quattro girati. Tu hai fatto vedere quel giorno anche invece un video di risposta alle critiche estremamente autentico che aveva funzionato. Esista 5. Vogliamo vederlo? Se lo troviamo, sì, certo, volentieri. Racconta un po'. Allora, Esterista Cinica, Verald, il brand, ai tempi ancora piccola azienda, completamente personale, è una storia simile a quella della Ferrari, se volete, no? Ma molto più calata sul suo personaggio, lascia una campagna promozionale con dei punti che sono i nostri, che chiamano tutti fagiani. sua community di persone, che fa? Sbagliano, quindi invece che 5 centesimi ogni punto vale, non mi ricordo, 55 euro al litro. Questo ovviamente provoca un dissesto in un'azienda che è comunque piccola, e lei fa, giustamente blocca la promozione, ma lo fa nel modo sbagliato, cioè lo fa comunicandolo sul sito e con una newsletter in maniera molto formale, molto fredda, molto distante. È stato questo che ha fatto arrabbiare la comunità, perché lei aveva sempre avuto un rapporto molto caldo con la sua comunità, quindi le persone sarebbero aspettate che lei lo comunicasse, no? Con una partecipazione normale, una dinamica da community, e invece lo comunica, e la viene accusata di essersi venduta, di aver perso la spontaneità, eccetera, eccetera. Alla fine lei produce questo video, vai. Proprio quindi facciamo ricerca all'Ansi Social Network, ovviamente questa cosa coinvolge le competenze di persone che lavorano per me, che secondo me non vanno messe alla berlina dei social network, e così come non va messa alla berlina l'azienda. Questo è il motivo per cui ho preferito scrivervi anziché fare una sequela di storie di Instagram per trattare un argomento economico complicatissimo, per qualcuno che non sa neanche di cosa sta parlando di schifa, sente due parole, si fa un via squele. Noi abbiamo fatto quello che io chiamo un merdone, abbiamo sbagliato la valorizzazione di tutti Fagiana, abbiamo talmente sbagliato che avrebbe seriamente messo a rischio finanziariamente la mia azienda, perché altrimenti, visto quello che sta succedendo a livello di immagine, tanto valeva rischiare dei soldi, anche tanti soldi, ma qua i soldi erano oggettivamente troppi. Quindi tra l'immagine e mettere in sicurezza l'azienda, io ho dovuto mettere in sicurezza l'azienda. Sono dispiaciutissima, cioè se li avessi avuti io quei soldi da mettere sul conto della mia azienda, giuro, l'avrei fatto, non ne ho così tanti, mi dispiace, non ce li ho. Ce ne siamo accorti a fine gennaio, è sbagliato, se ne è accorta la mia amministrazione e ci abbiamo messo un po' di giorni per cercare di calcolare tutto all'infinito per vedere se riuscivamo a restare in questo. Cioè, posso dire una cosa? Guardando questo video, no? Se io fossi, appunto, avessi un negozio di estetista per fare le unghie, se io fossi una parrucchiera, se io avessi un negozio che vende sigarette elettroniche, se io fossi uno che prepara dei pranzi e li porta al vicinato, cioè se io fossi una piccola media impresa, mi identificherei perfettamente in questo modo suo di raccontare le cose. Chiara Ferragni è percepita come un impero, è come, perché lo è, di fatto, e quindi, come dire, c'era anche, non è solo il modo. No, è anche proprio è l'intera narrazione che è diversa. Non può sembrare autentica, anche se mette a disposizione il miglior set che ha per sembrare un video fatto lì sul momento, paradossalmente è quasi un autogol, è quasi un boomerang, no? Per lei. Sì, in realtà c'era la discussione se l'avrei potuto fare o meno un video, ma ci torniamo. Cioè, io vorrei attirare la vostra attenzione sul fatto che lei ha fatto questo video con un cellulare, si vede, perché le luci sono sbagliate. Sì, ma poi è ancora più autentico il fatto che abbia usato le affordance, cioè le feature piattaforma, cioè usa i titoli come si fanno quando lei, cioè è lo stesso linguaggio delle sue normali storie, non ha dovuto cambiare dalla sua domanda. Ed è, cioè, da un punto di vista, allora guardate, cioè, guardate, l'inquadratura è sbagliata perché lei è insaccata, è leggermente sotto il cellulare, per cui è proprio un'inquadratura sbagliata. È sbagliata, Barbara, voluto anche perché un po' mi si. Sì, ma non lo discuto, però esce sincera. Esce fuori, il risultato che ti arriva è che lei è così e dice delle cose molto potenti, dice sì, abbiamo fatto una mezza, ragazzi, abbiamo questa, sì, non c'ho i soldi, non l'avrei fatto, non c'ho i soldi, cioè è un'apertura completa, così come lo potrei dire io a voi se fossi arrivato tardi oggi e avessi, ragazzi, ci ho provato, no, ho bucato le strade che l'avrei fatto tardi, con la stessa apertura, la stessa. È anche un po' polemica nei confronti di chi è polemico nei suoi perché giustamente non puoi semplicemente semplicemente abbassare il capo e dire ho sbagliato, cioè dice ragazzi sì però no anche me, cioè ok però anche me, è esattamente come abbiamo leggito noi ed è esattamente come le persone, la sua comunità si sarebbero aspettate che reagisse. Antonio dice una cosa giusta, Ferragni non c'ha questo percepito. Allora anche lì la prima cosa che devi fare quando gestisci una crisi non è capire come rispondere, è capire chi sei agli occhi degli altri. Se tu non sai chi sei agli occhi degli altri non potrai mai costruire la risposta giusta, che si basa su un aspetto semplice. La gestione della crisi oggi è la capacità di rispondere alle aspettative delle due pubblici di riferimento in quel dato momento. Cioè, mi spiego, arrivo tardi. Oggi, se fossi arrivato tardi invece di arrivare con qualche minuto di anticipo, che ti ringrazio perché noi eravamo in anticipo. No, ma io ero qua anche prima, poi sì, ho perso 2 minuti e poi sono salito. Se io fossi arrivato in ritardo, voi sareste aspettati da me che io vi chiedessi scusa per il ritardo, vi spiegassi perché avessi fatto il ritardo e tentassi di rimediare a questo ritardo, no? Cercando di trasmettervi, di fare numeri durante questa azione. Questa è la vostra aspettativa, legittima, normale, ma io lo devo sapere. E come faccio io a capire qual è l'aspettativa? Io devo essere consapevole del fatto che il professor Paolini vi ha annunciato che ci sarei stato e quindi voi vi aspettavate un docente, un collega, un testimone che arrivava qui e che vi raccontava le mie storie, vi aspettavate alle 11. Quindi io sapevo ai vostri occhi io chi ero, indipendentemente dal fatto che voi non mi conosceste. La Ferragni non si è chiesta mai quale fosse il suo percepito. Non si è chiesta il 18 dicembre quando ha fatto il video, non si è chiesto il 14 dicembre quando ha ricevuto la notizia della sanzione, non si è chiesto l'11 luglio quando ha ricevuto la PEC nel quale l'antitrust le annunciava di essere mai stato più chiesto. Era l'11 di luglio il momento in cui doveva reagire, non il 14 dicembre. Io questa cosa lo sento. E perché non ha reagito? Perché lei non aveva contezza del proprio percepito. Lei non ha capito che quella roba era lo spillo che avrebbe fatto esplodere la sua bolla etica e a quel punto sarebbe valso tutto, perché non avrebbe avuto più difesa. Allora, in questo senso l'aspettativa è legata al posizionamento. Tu lo dici una cosa molto giusta: se io fossi un piccolo imprenditore, un parrucchiere, un barbiere, un meccanico, cioè chiunque abbia un'attività, no, sotto le nostre cioè carte, praticamente tutti, tutto, diciamo, il nostro paese è fatto, esatto, no? Io mi ci riconosco in pieno, perché lei ha usato delle argomentazioni molto solide, dice ragazzi io non ho i soldi, non ce la faccio. A proposito di avere i soldi, no, perché Chiara Ferragni ha un CDA, no? Sì, perché la sua è, cos'è, una società per azioni? Un... lei a Bechenabai sono tutte SRL, però sì, ha un CDA, no, perché poi alla fine c'è un problema quando hai un'organizzazione così grande, che tu magari sei una persona, nessuno credo possa qui discutere il talento di Chiara Ferragni, certo, nella comunicazione, ha capito tante cose prima di chiunque di noi. Il problema è che spesso è più facile vendere internamente a chi tiene in piedi la sua infrastruttura idee sbagliate, è più facile vendere idee stupide. Quindi è capace, io provo a lanciare questa ipotesi, poi mi dici quanto tempo ti è rimasto, Daniele, è capace che... No, stavo guardando i messaggi perché c'è un dramma, c'è una piccola crisi universitaria. E allora ti lasciamo. No, tranquillo, tanto stanno gestendo i miei, controllo che stiano facendo bene, poi per questo... Va bene. No, dicevo... Nel momento in cui arriva la lettera a luglio, cos'è di chi gliela manda? La lettera? L'antitrust. La PEC dell'antitrust in cui le annuncia ufficialmente che è stata aperta un'istruttoria. Lei si è trovata di fronte alla scelta se vendere magari un'idea intelligente, poco popolare, che poteva essere quella di Daniele, cioè rispondere subito. Io non escludo che a lei fosse venuta in mente l'idea giusta, essendo una grande comunicatrice. E l'idea invece stupida da vendere più facilmente ai suoi stakeholder interni. E questo è un dramma col quale si scontrano quasi tutte le aziende. Questa, ecco, una cosa interessante del processo, tornando a AnyReport. Daniele è riuscito a vendere un'idea che poteva essere assolutamente spaventosa in quel momento. Si è ritrovato in una contingenza per cui Descalzi era così incavolato che alla fine è stata considerata una cosa del tipo senti, alla peggio diamo tutti la colpa a Daniele. Sì, io la vedo così. No, ma era chiaro. Cioè, nel momento in cui questa cosa è stata proposta, io ho avuto due contingenze fortunate. Da una parte avevo l'amministratore delegato che era infuriato con Toro, cioè era fuori dalla grazia di Dio. Io me lo ricordo un paio di riunioni con lui in cui realmente volavano le cose, ma non lo dico per finta, cioè lui era talmente incazzato che tirava la roba. Per quello parlavi dell'elmetto. Sì, sì, no, Claudio Scarsi, adesso molto meno, ma il primo periodo, e qua stiamo parlando del primo periodo, che lui si insediò nel 2014, quindi era il primo anno di gestione, lui era un sergente di ferro, cioè una roba, era veramente uno cattivo nel senso, non cattivo, era molto forte, un sergente, e quella contingenza. E avevo Marco Bardazzi che si era appena insediato, tra l'altro, da poco, che era stato chiamato 6 mesi prima, che non aveva ancora completamente capito, non aveva avuto la contezza completa del rischio a cui si stava esponendo. Cioè, a lui era piaciuta l'idea perché lui era un grande esperto di digitale, come sai, cioè. E quindi si era lasciato prendere dalla bellezza della cosa in sé, no? La bellezza un po' aurea. Cioè, diciamo che lui ha voluto vivere questa esperienza. Lui ha voluto vivere questa esperienza. Con questa avventura. Ma è ovvio che se fosse andata storta il Cirino sarebbe rimasto male. Senti, io siccome poi vorrei lasciare un po' di tempo anche per le domande dei ragazzi, ti volevo chiedere intanto se c'hai, visto che ne abbiamo viste due di crisi online, se ne hai una terza da cui imparare qualcosa dopo questa di Ferragni e questa di estetica cinica. Completamente online, allora ce ne sono due in realtà, una negativa. Sì, parliamo anche di quello che non ha funzionato. Allora, una negativa è quella dell'alcol lieto. Io la cito sempre. 2016, se non ricordo male, Acqua di Veto era lo sponsor della Federazione Nazionale Volley. Quindi della federazione, quindi sia nazionale maschile che nazionale femminile. La nazionale femminile gioca i mondiali, se non ricordo male, a Tokyo la domenica sera e perde. Per la finale, quindi insomma arriva seconda, ovviamente. E Univeto compra le quarte di copertina dei primi quattro principali quotidiani italiani: Repubblica, Corriere, Sole e Corriere dello Sport. Comunque, immaginate quattro giornali. Compra queste quarte di copertina e fa pubblicare un'immagine a tutta pagina dove c'è praticamente la bottiglia dell'acqua, la squadra schierata da dire in campo di pallavolo, no? Un palazzetto di pallavolo, squadra schierata, bottiglia in apertura a sinistra, squadra schierata davanti, bandiera italiana sulla destra a chiudere la quinta di destra e dirigenti di spalle con la scritta Italia sulla polo a chiudere la quinta. Quindi immaginate una foto piena, molto anni 80 come impostazione, questo bisogna dirlo, però una foto molto molto piena, molto di impatto, eccetera eccetera. Che succede? Che succede? Che nel montaggio, nella corsa, la bottiglia, nel montaggio dell'immagine, la bottiglia finisce su alcune giocatrici della nazionale. E siccome, sappiatelo, voi che volete affari comunicatori, siccome l'unica legge che è in vigore in tutto il mondo e che non sbaglia mai è quella dell'AFI, chi c'è sotto quella bottiglia secondo voi? La EGONU finisce sotto la bottiglia, che tra l'altro è anche una delle punte di diamante, che non era proprio esattamente, dice uno che passava di lì, no, per sbaglio, cioè non è che puoi dire se è stata cancellata è uno sbaglio, no, evidentemente dietro l'hanno proprio voluta cancellare perché è un simbolo di, allora, siccome quello fu uno sbaglio del grafico, È una catena di errori, come sempre via, cioè di corsa chiudono le PS, lo mandano alla litografia, nessuno lo controlla, va in stampa, la pubblicità va in stampa, esce sui giornali. Un nostro comune amico che ha fatto il tweet, l'ex direttore del tuo blog di Team Mantellini. Okay. Massimo Mantellini vede, compra il giornale, uno dei pochi che compra il giornale di carta ancora, Massimo compra il giornale, vede la quarta di copertina così, fa la foto, la posta e fa Uniretto, ma tutto ok con questa pubblicità? E da quel momento in poi, ragazzi, delirio, una delle crisi più anomale. Perché normalmente le crisi partono con le conversazioni, poi dopo un po', quando salgono i volumi, ci salgono a bordo gli influencer, e poi arrivano i media, e poi. Lì invece fu esattamente al contrario, perché partì Massimo Mantellini, Selvaggio Lucarelli de corsa subito, e ci fu una sorta di gara tra influencer a chi menava più forte. Per cui voi immaginate, c'è stata questa, io me la ricordo, era una domenica mattina, mi ci chiama, non mi ricordo chi è, dice: Daniele, guarda perché sta succedendo il delirio per l'acqua minerale. Vabbè. E che succede? Adesso, tutti l'accusano di aver fatto una scelta deliberata. Cioè, il problema qual è? È che per tutti questa non è un errore del grafico che era ubriaco sabato sera, ma è una scelta deliberata. Cioè, secondo tutti, secondo la narrazione, Massimo compreso, Uniretto avrebbe volontariamente coperto la giocatrice di colore con la bottiglia. Che è un'assurdità, tenetevi conto, no? Cioè, io spendo 8 milioni di euro per sponsorizzare la Federazione Italiana Gioco Volley. Quando li ho spesi, lo sapevo che c'erano due giocatrici di colore. Non mi spendo, se sono razzista, non spendo, no? Anche ci metto le bottiglie sopra. Chiedetevi come mai, quando c'è la cerimonia di premiazione di Wimbledon, la duchessa di Kent passa in mezzo a due file di raccattapalle, si intrattiene sempre con un raccattapalle di colore. Di colore, certo. Perché, a proposito di maestri della comunicazione, la famiglia reale questa cosa l'ha capita all'inizio del colonialismo. Noi invece ancora siamo. Vabbè. Il problema più grosso quale fu? Che a un certo punto Uniretto, presa completamente di sorpresa questa cosa, perché non se l'aspettava, dopo un bel po' di tempo, nel pomeriggio della domenica, risponde, tra l'altro su Instagram, quindi sbagliando anche la piattaforma, perché il grosso era su Twitter e su Facebook, però va bene, risponde dicendo, in sostanza, ve la faccio in sintesi, come vi permettete? Voi non dovete neanche osare accusarci di essere. Scusate un secondo. Luca, sono a lezione, ti posso richiamare fra due minuti? L'hanno cancellato. Scusami, ciao. E, dice, non dovete neanche permettervi di accusarci di una cosa del genere, perché noi abbiamo sempre arrabbiatissimi. E la risposta è stata, come si dice, la pezza è stata peggio del buco, perché poi le persone dicono, scusami, a bottiglia su quella di colore ce l'hai messa, sì o no? Sì, e allora almeno mi scusa. Io non dico, vogliamo discutere il fatto che l'hai fatto volontariamente o non volontariamente, discutiamone, ma partiamo dal fatto che hai fatto comunque un errore, oggettivamente, no? Perché non era la tua volontà mettere una bottiglia su. E da lì in poi, questo è il primo caso di crisi. Sì, vede, scusami, torna su. Questa era come sarebbe dovuto venire, perché era la nazione maschile. E sotto è come invece è stata fatta la femminile. È evidente, ragazzi, che è un errore di zoom. È evidente. Io stavo cercando disperatamente la risposta. Lo screenshot, però l'hanno cancellato giustamente dal campo, però speravo che qualcuno avesse salvato lo screenshot. Io sono uno screenshotatore di quelli. Sì, anch'io, però io ce l'ho sulle mie slide, ma prima che le ricarichiamo. Qualsiasi cosa, poi la tengo negli anni pronto da poter ricattare qualcuno anni dopo. Una pessima persona. Ecco, quindi questo è il caso di una crisi social gestita malissimo. Invece una crisi social gestita molto bene, risale a molti anni prima, io la porto sempre come esempio, 2011, tema anoressia, polemiche molto forti intorno al mondo della moda, che ovviamente viene accusata di proporre un modello estetico di donne anoressiche. Okay? Patrizia Pepe, certo. Non so se conoscete la Griff, rimane coinvolta in una bruttissima polemica, pesantissima, che di fatto la fa uscire dal mercato poi, perché quell'anno dopo quella, eccola la pubblicità, pubblica in quell'anno, era aprile del 2011, pubblica una pubblicità con una modella che era oggettivamente molto magra, no? Ma tanto magra. Viene attaccata pesantemente, risponde malissimo, ve la faccio breve, finisce male, eccetera. Contemporaneamente, invece, Max & Co., che era un diretto competitor di Patrizia Pepe, a una settimana di distanza dall'esplosione del fail di Patrizia Pepe, subisce un attacco uguale e purtroppo è difficile trovarlo questo perché non riesce a gestire talmente tanto bene dialetticamente l'attacco che subisce rispetto alla sua pubblicità, da immaginate una situazione in cui tutti attacchiamo sull'anoressia, a chiudere la polemica in 6 commenti praticamente. E quello è il. Vediamo se riesco. Ti lascio. No, è perché dovrei prendere il mio computer e agganciarlo, diventa molto lunga la cosa. No, però per farvi capire, quel caso, magari cercatela con un attimo più di calma, Max & Co. aprile 2011, lo trovate, troverete sicuramente degli screenshot da qualche parte, e vedrete una risposta molto, anche molto aggressiva, molto forte, molto assertiva, molto forte, ma che ha bloccato completamente tutto il flusso di polemiche social. Sarà difficile trovare. No, la devo riprendere io dalle slide, dai, che adesso è troppo lungo agganciare il mio computer e fare perché. Quindi questi due esempi che mi vengono in mente, quello di Uliveto è stato veramente mal gestito, proprio tanto tanto tanto mal gestito. Sì, qui ci sono un paio di commenti di Patrizia Pepe. Vabbè, questo, cioè il commento di Patrizia Pepe, questo qui, che è infinito, ragazzi, cioè ve lo leggo perché non deve diventare per voi una sorta di bussola, nel senso non farete mai niente di tutto questo, cioè dopo una lunghissima sequenza di commenti negativi, loro a mezzanotte 07, quindi vanno proprio, si chiude la vena, come si dice, no? non ce la fa più, e fa, sì, ma cosa rispondiamo a fare le solite persone che si lamentano delle modelle, no? Cioè, vabbè, ragazze, ognuno nasce con un certo DNA e un certo fisico, quindi nella risposta un'azienda divide il mondo fra chi c'ha un certo fisico e chi no, che non è esattamente inclusivo, no? Tanto né rispettoso, ci spiega qual è il valore, questa no? Questa fase è pazzesca, vengono scelte per indossare i capi perché su di loro hanno una resa perfetta, cioè, l'idea di pensare invece dei capi che abbiano una resa su altre persone non gli passa neanche per l'anticamera del cervello. No, tu hai un fisico, cioè tu hai la fortuna di avere un metabolismo che brucia pure il piombo, allora su di te porti una 41 e mezzo non va bene, devi morire, che è una follia. E infatti in realtà la crisi di Patrizia Pepe al netto della pubblicità nacque da qua, cioè la vera crisi partì dalla sua risposta, perché ovviamente a quel punto le persone la presero di mira non più tanto per la scelta estetica, ma quanto per il rapporto che ha avuto con i propri stakeholder. Finì il giorno dopo, un paio di giorni dopo, finì su Ninja Marketing, che ai tempi era un po' la Bibbia del marketing digitale, siamo nel 2011, quindi tanto tempo fa. Poi fu ripreso dalle Iene una settimana dopo, ci fecero un servizio alle Iene, e il giorno dopo l'uscita dalle Iene finì su tutti i TG nazionali, caso Patrizia Pepe, anoressia, eccetera, eccetera. Quell'anno chiuse col 52% in meno di fatturato, andò fuori mercato. Quindi capite che porta la presa. Abbiamo parlato di, a proposito di fuori mercato, abbiamo parlato di Kryptonite come un primo momento. Madonna, Kryptonite, questo. Ma sì, no, lì soprattutto la modalità di accesso. Allora, io mentre voi ragionate su qualche domanda, mi auguro che ci sia, perché insomma di temi Daniele ne ha sollevati, rompo il ghiaccio con una domanda, diciamo così, che nasce anche un po' da quello che abbiamo discusso la settimana scorsa. Qui abbiamo avuto Simona Vargas, che è marketing communication manager di Telepass e che ha rivoltato come un calzino la comunicazione di Telepass, che prima era molto ingessata, adesso diciamo... La vedo la prossima settimana, Simona. Esatto, con Jalis, insomma, sì, ha lavorato con tanti celebrities, influencer. Allora, dopo il caso Ferragni è chiaro che l'idea di rivolgersi a queste figure per rilanciare messaggi aziendali quantomeno passa un vaglio, cioè ci andiamo molto più tutti coi piedi, coi piedi di piombo, no? Che cosa abbiamo imparato, quali sono, dal punto di vista di una istituzione, perché adesso mettiti nei panni di persone che potrebbero ritrovarsi presto, ce lo auguriamo, a essere responsabili di web e social platform di istituzioni culturali, no? Perché questo è un corso che prepara soprattutto questo tipo di figure. Quali sono un po' le precauzioni da prendere, i pensieri, cioè il pensiero da sviluppare prima di decidere a chi rivolgersi per rilanciare un messaggio di un'istituzione culturale, che si può, tu dicevi prima, bisogna chiedersi chi siamo, no? Certo, esatto. Quindi se tu sei il MoMA e c'hai alle spalle una storia di scelte social e web tutte abbastanza maverick, tutte abbastanza rivoluzionarie, no? I podcast fatti dagli studenti, cioè è un conto. Se sei la Galleria Nazionale, già è diverso. Se sei le scuderie del Quirinale, cioè già è un'altra cosa ancora. E se sei da una sovrintendenza, un'altra cosa, un quarto livello, certo. Di diciamo. Ma io partirei da un ragionamento molto semplice che mi sembra di buon senso e che molto spesso non si fa. Allora, bisogna smetterla di cercare, perché è un atteggiamento molto anni 80-90, cercare la popolarità, no? Cioè il pubblico per definizione. Ma questo vuol dire fare marketing. Questo, esatto. Cioè il concetto non fare PR. No, esatto. Allora, siccome la scelta dell'influencer spesso e volentieri è esclusivamente un'operazione di marketing mal gestita, perché tu prendi quello che ha più follower in assoluto, lo metti di fronte alla, qual era il quadro a cui si è fatto la Venere del Botticelli. Allora, io la domanda che mi dovrei chiedere, mi vorrei, se fossi stato il direttore della comunicazione degli Uffizi, è: perché la Ferragni? Perché se io prendo la Ferragni perché c'ha 29 milioni di follower, bene, ai tempi erano 31. Bene, sono 29. Benissimo, io però sto facendo un'operazione di awareness, non sto facendo un'operazione di reputation, sto facendo un'operazione di pura awareness, e quindi è come se prendessi il Walter Chiari della situazione e facessi uno spot pubblicitario, è la stessa dinamica. Invece pensare che una persona ha un valore iconico e quindi fare un'operazione alla Nike, quando scelse di fare la campagna del ventennale Just Do It, il suo mitico slogan, e decise di ingaggiare Colin Kaepernick non era un giocatore di football qualsiasi, era quello che si inginocchiava col pugno sinistro alzato durante le partite della Major League Black Lives Matter a difesa dei diritti delle persone di colore contro Trump, quindi non una persona divisiva, di più. Sì, come prendere le Black Panthers, le stesse. Esatto. Allora, se tu prendi una persona, tu non, come dire, non ingaggi solamente il suo pubblico, tu ingaggi anche il suo set valoriale. È ovvio che non mi aspetto che gli Uffizi prendano una persona divisiva, adesso non mi viene in mente uno. Ma a me viene in mente Greta Thunberg, no? Oh, benissimo. Se tu ipotizziamo che Greta Thunberg abbia 20 milioni di follower. Se io ingaggio Greta Thunberg, non ingaggio i suoi 20 milioni di follower, ingaggio i valori di cui lei è portatrice e si fa paladina. Sono i miei? se sì, la va mappa valoriale, devi fare il match delle mappe, esatto, valoriali. Esattamente. O anche magari quella aspirazionale, cioè magari non quello che tu sei già. Che no, tu vuoi andare a parlare lì. Vuoi andare lì. Benissimo. Allora vai, per esempio, nel caso di Telepass, secondo me l'operazione che ha fatto Simona Poggiadis ha funzionato perché si è rivolta a un pubblico che intanto era numeroso e si agganciava. La cosa affascinante del lavoro che ha fatto Simona è che si aggancia alle conversazioni generate da un caso che nessuno ha deciso a tavolino. No, cioè, il fatto che i Jalis non fossero stati chiamati a Sanremo era semplicemente un argomento di conversazione. Quindi lei è andata sui topics, sui trend, e ha detto di che cosa parlano le persone. Qui ci sono dei valori che noi possiamo cavalcare con il nostro brand. Sì, e esatto. Allora ha funzionato. Esatto, ha esatto. Messo insieme una specie di talk about dominante in quel momento con la mappa valoriale, sfruttando anche un po' l'immagine dei Jalis, che sono quelli tosti che combattono, che non mollano mai, che però sono un po' sfortunati, però tutti gli vogliamo bene, perché poi alla fine no, sì, hanno c'è qualcosa di picaresco, c'è molto di picaresco secondo me in realtà, e quindi è una scelta molto intelligente la scelta. Allora, è esattamente come quando, anzi è peggio, è ancora peggio di quando fai le scelte di sponsorizzazione, no? Cioè io mi ricordo che quando ero in Eni mi arrivavano le proposte di sponsorizzazione più folli del mondo, no? Cioè, sponsorizza la saga della polpetta come sponsorizza la saga della caccia. Che problema hai contro le polpette? Io contro la caccia ho dei problemi. Sì, ma quello con, sì. Contro le polpette nessuno, capisco. No, non era quello perché era una cosetta piccolina, proprio sì, no. Sì, sì, okay, però io mi chiedevo sempre, ok, ma che valore ha per noi da un punto di vista reputazionale e valoriale? Io per esempio mi sono sempre rifiutato, e finché ci sono stato io non è mai passata la sponsorizzazione ai festival che in qualche maniera avevano a che fare con la caccia, perché secondo me abbinare, al netto della mia posizione personale che è profondamente negativa nei confronti dei cacciatori, ma questa è una cosa mia personale, io ho sempre pensato che non avesse senso abbinare un brand già di per sé controverso a un'attività che comunque sia legata alla violenza, no? E quindi ha un impatto sull'ambiente. E quindi mi sono sempre rifiutato. E alla fine ho avuto ragione, perché quando poi sono uscito e chi mi ha sostituito fece una piccola sponsorizzazione a non mi ricordo cosa che aveva a che fare con la caccia, ci furono polemiche. Perché giustamente dice, perché Eni? No, allora Eni vuol dire che appoggia la... no, Eni non appoggia la caccia e quindi non sponsorizza. Quando si parla di prendere un personaggio è ancora peggio, perché tu te lo metti in casa, cioè tu la sua faccia diventa la tua, le sue battaglie diventano le tue, i suoi difetti diventano i tuoi. Quindi la prima cosa, l'unica cosa che devi fare è riuscire a immaginare, anche qui questo vale in generale, l'impatto che la tua scelta avrà. Cioè, adesso io devi anche guardare molto gli scheletri fino all'ultimo angolo. Quello non ne parliamo. Perché diciamo che la capacità di crowdsourcing che ha la rete di andare a trovare quello che tu hai, per questo c'è anche un po' quel famoso horror veterans di lasciare traccia, no? Distruggere gli archivi, le vecchie notizie, nasce anche dal fatto del terrore che qualcuno poi un giorno trovi qualcosa che rispetto al tuo nuovo posizionamento valoriale può ucciderti. Vi racconto un episodio che mi è successo due settimane fa, a me personalmente, ve lo racconto, ti facciamo a proposito di quello di Cantoni. Sono stato chiamato a moderare in Bicocca, perché tra i miei clienti c'è l'Università Bicocca, un evento, il primo di un ciclo di eventi che la Bicocca aveva organizzato su Israele e Palestina, in risposta a una richiesta degli studenti, dei Propal, no? Parliamone, benissimo, hanno organizzato questo che era ovviamente un convegno in cui si analizzavano gli aspetti storici del conflitto, non certo, diciamo, non c'era una presa di posizione. E io dovevo moderare questi due docenti universitari che cioè, uno... Cioè, dovevi accertare tutte comunque, eh? Cioè, moderare... Quindi immagina, tutta la preparazione, tutta la preoccupazione di Propale, eccetera, eccetera, a un certo punto, come ci si aspettava, la rappresentante dei movimenti Propal della Bicocca entra nell'auditorium, prende la parola e legge un comunicato. E che era quello che ci aspettavamo, cioè l'attacco alla Iannantoni, che è la preside, sì, preside, la rettrice, nonché presidente della CRUI, la richiesta di presa di posizione contro Israele, temi che conoscete. Ma la cosa divertente è che alla fine hanno attaccato me. Allora sono d'accordo. Hanno attaccato me perché? Perché la ragazza fa, e poi la scelta di organizzare questi convegni di approfondimento è ipocrita, e su questo ero meno d'accordo, ma va bene, è ipocrita, e poi riteniamo provocatorio il fatto che a moderare il primo sia stato chiamato un giornalista dell'AGI che appartiene a Leni. Che ha interessi. Che ha interessi, no, bla bla bla. Allora io lì mi sono reso conto che loro sono andati a vedere chi ero, certo, bla, eccetera, eccetera, e hanno ricostruito tutto, eccetera. La mia risposta è stata, gli ho fatto prendere l'applauso, gli ho chiesto se voleva fare delle domande ai professori, gli ha detto di no, gli ho detto guarda, hai ragione, io sono un giornalista, però visto che sono un giornalista permettimi di darti un consiglio, quello è un comunicato che tu darai ai miei colleghi giornalisti, correggilo, io non sono mai stato un giornalista dell'AGI, ho lavorato in ENI, come no, ho diretto la comunicazione digitale dell'ENI e ho diretto la comunicazione digitale dell'AGI, ma non sono mai stato in forza della redazione. E poi ti segnalo che sono 6 anni che mi sono dimesso, quindi è passato un po' di tempo. Però questo a sostegno di quello che dice Antonio, cioè le tracce che noi lasciamo sono sempre, esistono sempre e ti si possono ritorcere contro. Ovvio, io non lo ritengo uno scheletro nell'armadio il mio curriculum personale, però in quel contesto, in quel dato momento era una forma di un gancio d'attacco. Con lo stesso meccanismo, se io avessi moderato un incontro che so, dove a un certo punto si parlava di guerra civile in Jugoslavia, avrei detto, ah sì, ma Pavolini che lavorava nella comunicazione di un'azienda che è finita coinvolta nello scandalo Telecom Serbia. Esatto, esattamente. E io che potevo fare? Niente. Esatto. Cioè se uno vuole comunque trovare il collegamento, lo trovo. Sì, sì, ma c'è oppure tutto. Adesso parlavamo prima del fatto che della caccia e della pesca. Adesso c'è Eric che in Costa Crociere fa tanta comunicazione sulla sostenibilità. Cosa vai a dire? Ah, ma prima lavorava in Sky dove c'era il canale caccia e pesca. Cioè, è complicato. Così è veramente complicato. Assolutamente sì, però c'è sempre. Però quindi vanno studiati i set valoriali quando scegli un influencer. Posso fare una domanda io allora? Cioè, magari questo problema un po' si riconnette più che altro a quella questione un po' strana di giornalista sì, impresa. Cioè, come se subisse. Cioè, è la stessa che gli avrei fatto io, però ho detto no, adesso no. E poi ho pensato, oddio, c'è Costanza, speriamo noi. No, poi in realtà la domanda era un po' più ampia, perché volevo fare una domanda, cioè, ricollegandomi a questo tema del giornalista sì, ma l'impresa, però era una domanda un po' più scherzosa, spiritosa su, e personale, su appunto per dare un volto, una persona reale al giornalista d'impresa che non è. Che scrive per Eni, è un giornalista che difficilmente però ti firmi, ecco, no. quando no, scrivi no, sulla no, property aziendale no, non ti firmi mai. La domanda era rispetto al caso con Report, è una domanda stupida e buffa, da persona, cioè chiedo alla persona, non al giornalista in questo caso. Prima scherzava sul fatto del sono qua dietro che mi seguono ancora, ma in realtà è anche bella perché c'è un po' di eticità del lavoro di giornalista. Ma Report, i giornalisti di Report, ne hanno mai fatto i complimenti? Sì. Questo volevo chiedere. Allora, non solo hanno fatto i complimenti, per sgombrare il campo, io sono un grandissimo sostenitore di Report. Sono amico da 20 anni di Siegfried Ranucci, conosco tutta la redazione. La conosco, per farti capire il contesto, la conosco talmente bene che io vengo tuttora, adesso un po', però insomma, vengo tuttora invitato alle cene che organizzano fra Carta Bianca, piuttosto, no, tutte le redazioni dei programmi di approfondimento, c'è una sorta di circoletto, no? Conosco tutti, mi vengo invitato regolarmente, mi rispettano per il mio lavoro. Quindi, sì, Luca Bianca, che era diciamo l'autore del servizio quando ci fu Anniversus Report, poi dopo mi chiamò, fece i complimenti, figurati, non è mai stato in discussione il valore, te lo dice un giornalista, e faccio giornalista credendoci quando faccio giornalista, e torno alla cosa, perché sono un giornalista, nel senso che quando faccio giornalista, faccio giornalista. Quando mi sono dimesso da Repubblica nel 2004, con largo anticipo rispetto alla diaspora di adesso. Esatto, con largo anticipo, perché io fui assunto da Scaffari, quindi nel 95, mi sono dimesso nel 2004 per passare in Unicredit. Io ho smesso di fare giornalista, ma proprio da un punto di vista di missione io non mi sono sentito più un giornalista. Non a caso non ho più lavorato, non ho più partecipato alla vita sindacale o alla vita dell'ordine, no? Al CDR, perché il mio mestiere era un altro, ok? Cosa ho portato però nel mio mestiere? Le capacità tecniche del giornalista. Quindi per sciogliere il nodo, anche quando io lavoravo in Agi e mi occupavo di comunicazione digitale per l'Agi e non lavoravo in redazione, io non facevo il giornalista, non ho mai fatto giornalista, non ho mai firmato nulla, non mai scritto un articolo. Io facevo il professionista della comunicazione e portavo le competenze giornalistiche, competenze, le tecniche giornalistiche all'interno dei processi di comunicazione. Ma ero ben lontano da definirmi giornalista di impresa. Attenzione, perché il giornalismo di impresa non esiste. Esiste l'applicazione delle tecniche giornalistiche alla comunicazione di impresa. Cioè non c'è un giornalismo di impresa e un giornalismo non di impresa. Che è quello che capirebbe il pubblico se sente per il giornalismo. Però tanti noi invece in realtà sappiamo la differenza. Esattamente. Infatti io ti do ragione, il termine brand journalism è misleading, è profondamente misleading. Ma no, dipende dal contesto in cui lo usi. Se vai a Inferpi lo puoi usare. Certo. È chiaro che se vai alla Repubblica delle Idee, intervistiamo sul brand journalism. Sì, no, è chiaro. Certo. No, sono d'accordo. È così, assolutamente sì. Altre domande per Daniele Chieffi in questi ultimi 10 minuti? Perché poi andiamo a mangiarci qualcosa. Non so se voglio chiedere una cosa anche in questo caso qua. Ma in questi casi di crisi di comunicazione mi ha fatto venire in mente anche un po' quello legato a Elisabetta Franchi, sì, quando certo, ha detto no. Io prendo solamente donne che ormai hanno fatto tutti i giri, tipo che anche lì c'è stato un putiferio assurdo. Ma non capisco perché, al posto di da parte di aziende e manager, anziché dire ok, ho sbagliato, ho commesso un errore, perché c'è questa continua predisposizione a trovare giustificazioni che portano e che continuano a aumentare ancora di più le critiche, quest'onda di offese ingiustificate? Fai una domanda epocale. ti posso non ho la risposta, nel senso che è sistemico il problema. Ti posso dire quello che penso io riguardo a questa cosa. Ci sono due elementi che entrano in gioco. Il primo è il senso di centralismo universale che ogni azienda ha riferendosi a se stessa. Cioè ogni azienda pensa di essere l'ombelico del mondo, grande o piccola che sia, ok? Che è la stessa dinamica che si mette in moto quando un amministratore delegato va dal suo addetto stampa e dice: guarda, domani io inaugurerò la nuova sede a Sgurgola Marsicana. Il nostro nuovo negozio è Sgurgola Marsicana, ovviamente voglio le prime pagine di tutti i giornali, e tu te lo guardi e dici sì, ma anche meno, non è una notizia, no? Quindi c'è questo aspetto. L'altro aspetto è un problema culturale, cioè le aziende continuano a vivere se stesse non come parte di una comunità, ma come soggetti terzi rispetto alla comunità. Questo viversi come soggetti terzi rispetto alla comunità gli impedisce di percepire se stesse come soggetti interni a un gruppo, e quindi impedisce a loro stessi di riuscire a vedere se stesse come soggetti che nel momento in cui sbagliano devono chiedere scusa. Non riescono a vivere loro stessi all'interno di un contesto conversazionale, e questo è un limite molto grave. Perché grave? Perché basterebbe poco, cioè La scelta che ho io, se tu mi dici, Daniele, hai sbagliato, secondo me il fatto di metterti una camicetta a righe oggi è un errore, ok? Io ho due strade. Ti guardo e dico, sai, c'hai ragione. Mi dispiace, scusami, ma non avevo tempo, era un'unica camicia che mi era rimasta nello zaino, mi sono messo. Oppure ho l'altro scenario di difendere la mia scelta. Dici, no, guarda, scusa, mi piace tantissimo questa camicia, mi sta bene, perché non la devo mettere, no? Ambe due scelte sono profondamente rispettose nei tuoi confronti, perché comunque io, dandoti o prendendo una posizione o chiedendo scusa, comunque ti riconosco un ruolo. Quello che non fanno le aziende è riconoscere il ruolo del proprio interlocutore. Non lo fa mai. Il rispondere di Uliveto arrabbiandosi perché come vi siete permessi di criticarmi è il non riconoscere il ruolo. Cioè continuare a trattare il pubblico come il popolo bue, no? Per titoli modo. E non per esami. Esattamente, per titoli e non per esami. E questo è un problema culturale. Guarda, dal punto di vista culturale io credo ci sia, se posso aggiungere un elemento, un livello ancora più ampio, e cioè il rapporto che ha la nostra cultura con l'errore in quanto tale. Ah sì, certo. Perché se la nostra società nel tempo, anche nelle sue forme apparentemente competitive, capitalistiche, noi abbiamo scimmiottato, diciamo così, il capitalismo di matrice anglosassone, l'abbiamo trasformato in qualcos'altro che è quello in cui navighiamo, ci siamo venduti tra di noi un miracolo industriale che era nelle mani di poche famiglie ed era tutto tranne che competitivo. Esatto. Quindi è chiaro che in questo contesto bacato fin dall'inizio, tra l'altro sussidiato dall'esterno, altrimenti non sarebbe mai stato possibile realizzarlo per ragioni strategiche che sappiamo, fino almeno all'89, e infatti ora vediamo come sta andando. Se le persone vengono remunerate per la capacità di negare gli errori e non per la capacità di rischiare e di commettere errori, non dobbiamo sorprenderci che la cultura aziendale sia permeata da questo senso di Patrizia Pepe che dice ma come ti permetti, o di Uliveto, ma come ti permetti, perché a monte l'idea che tu possa aver sbagliato significa che sei un incapace, non una persona che ha il coraggio di rischiare, no? Aggiungo, questo si lega, se vogliamo alzarci su un livello un attimo più sistemico e filosofico, si lega col fatto che c'è un'enorme differenza tra il nostro modo di vivere il fallimento e quindi di vivere l'errore e il modo invece anglosassone di vivere il fallimento. Per gli anglosassoni il fallimento è parte di un processo, non è discredito, ok? Fallisco, ricomincio, imparo, ricomincio, fallisco di nuovo, imparo, ricomincio. Okay. Per noi fallire, ma anche nella struttura giurisprudenziale, è chapter 11, no? Cioè siamo di fronte a qualcosa di illegale, cioè il fallimento è illegale e non etico, è immorale, anzi non etico. Allora capisci che nel momento in cui per un professionista che gestisce la comunicazione di un'azienda, ammettere di aver sbagliato lo vivi come un fallimento, nella stessa ottica culturale con cui si vive il fallimento dell'impresa. Ed è la cosa più sbagliata in assoluto, perché il chiedere scusa è una, adesso sono cinico, è la strategia di comunicazione migliore in una crisi. È proprio il primo step. Io sono quello che dice ai propri clienti, tu chiedi scusa, dice ma io non ho sbagliato, non è colpa mia, hai creato un problema, hai dato fastidio alle persone, tu chiedi scusa comunque, poi si ricomincia. Il non chiedere scusa arrivi a dei paradossi come quello di Autostrade per l'Italia che di fronte al crollo del Morandi, ragazzi, 43 morti, un crollo storico, nel senso che non era mai venuto giù in Italia un'infrastruttura così, a parte il Vajont, cioè stiamo parlando di una roba che Autostrade non solo sparisce per 3 giorni, cioè evapora, l'azienda evapora, non esiste più, e poi si riaffaccia al mondo con un comunicato scritto dagli avvocati. nel quale il comunicato, esattamente al contrario di quello che stiamo dicendo, mira solo a scaricare la sua responsabilità. Ma io dico, il gestore di quell'infrastruttura sei tu o no? I 43 morti sono passati su un ponte che tu gestivi o no? Ma lo vuoi dire coram populo, quantomeno che ti dispiace? Anche se, anche perché dopo sarei comunque costretto a fare visibili lavori di manutenzione su tutta l'infrastruttura di quella stessa epoca. Figurati. Quindi avresti negato il comunicato degli avvocati per i successivi 5 anni. La follia più assoluta. Cioè, noi viviamo in un mondo nel quale le aziende hanno pensano ancora che si possa fare, io ci ho litigato ferocemente a volte in Eni, si possa fare il post che piace a tutti. Dico, ragazzi, non esiste. Cioè, le aziende, se io... Se... Ma scusi, questa cosa secondo lei è soprattutto italiana oppure la vede anche all'estero? Allora, io speriamo... Allora, io ti dico, io... No, allora, il mondo statunitense è un mondo che ha capito da tempo la forza dell'assumersi la responsabilità e quindi le aziende americane sono quelle che, se serve, se è necessario, scusa, lo chiedono. L'accountability è. Io ho un'esperienza diretta del mondo tedesco, del mondo francese, del mondo inglese. Sono molto diverse. Il mondo, diciamo che in generale il mondo latino tende a comportarsi come noi, quindi anche gli spagnoli, i francesi, i greci, non ne parliamo, cioè tendono a... I tedeschi, che sono più vicini al mondo anglosassone, tendono a essere quelli che si assumono la responsabilità. La differenza con gli inglesi e con gli americani, mentre gli inglesi e gli americani hanno interiorizzato il concetto della responsabilità e quindi l'hanno fatto diventare una tattica o uno strumento, i tedeschi ce li devi portare per proprio, cioè li devi costringere. Se sono costretti dai fatti, allora che alzano le mani e chiedono scusa. Ma devono essere proprio la cosa buona dei tedeschi è che non cercano scappatoie, cosa che noi cerchiamo regolarmente. Cioè loro dicono: mi hai dimostrato che ho torto, chiedo scusa. A un italiano, cioè, mi hai dimostrato che ho torto, cosa faccio per non chiedere scusa? Cioè, a me, io mi sono sentito dire, Daniele, che diciamo pur di non ammetterlo? No, non è esattamente il contrario. Che diciamo per ammetterlo e come gestiamo la cosa? No, io non lo do, no, abbiamo sbagliato noi. Non esiste che ammettiamo, dobbiamo ammettere, cioè, questo è il mio lavoro. Cioè, quando siamo in crisi, questo è il mio lavoro, non vi posso dire per chi, ma per una grande azienda in cui ho gestito una crisi molto violenta, questo è stato lo scambio. Cioè, guarda, è evidente, avete fatto, è colpa vostra. Sì, dobbiamo trovare il modo di non farlo sapere. No, ricominciamo da capo, è colpa vostra. Dobbiamo dire che è colpa vostra e dobbiamo mettere in piedi i rimedi per i danni che avete comportato. No, che sei matto? No, non esiste. Io rimesso il mandato. Io rimisi il mandato per quell'azienda. Ma è anche il motivo per cui spesso la comunicazione di crisi viene gestita da agenzie. Perché è come se loro si assumessero questa parte, no? Sì, perché se sbagli è l'agenzia che paga, no? Ricordatevi che se avrete è un'esperienza che comunque vi consiglio di fare indipendentemente, se farete un'esperienza in agenzia, ricordatevi che l'agenzia, che è una scuola pazzesca, cioè se voi fate esperienza in agenzia poi non fa ammazza per niente, cioè siete impermeabili ai proiettili, agli incendi, fate quello che vi pare dopo. Vi raccontavo che con Eva Iannotti organizzavamo gli incendi apposta, sì, crisis training, figurati. Come stai, va tutto bene? Oddio, è un paio d'anni che non la sento. Infatti, ma neanche io per questo dire. Le agenzie hanno un doppio ruolo, cioè sono quelle che lavorano, ma sono quelle che poi sono pagate per assumersi la responsabilità. Cioè, io ho, questo tanto ve l'ho detto, Bicocca, all'Università di Milano, io ho la responsabile della comunicazione dell'Università di Bicocca che mi manda le comunicazioni che è un po' più delicate, le manda a me per mail. Siamo amici da tanto, però non è che mi chiama dicendo Daniele, che ne pensi di questa cosa? No, mi manda per mail, copia tutti, cioè Daniele, cosa ne pensi? Possiamo mandarla così o la cambieresti? È ovvio che nel momento in cui io gli rispondo per mail, sì, va bene, mandalo, e si scatena un putiferio, la colpa mia. Io sono pagato per questo, cioè sono un po' il signor Molossen di Daniel Pennac, sono un po' il capo espiatorio, e tutte le agenzie sono un po' il capo espiatorio, sappiatelo questo, però la palestra delle agenzie è impagabile. Se vi fate una prima esperienza nell'agenzia, poi andate in azienda, dopo starete in vacanza perennemente, cioè proprio non... No, vi sembrerà di camminare su un soffice manto erboso quando entrerete in azienda dove essere fatto un paio di anni in agenzia, che in agenzia il lavoro è a dei ritmi infernali, dovete tenere sotto controllo 8 cose contemporaneamente, lavorate su 8 industrie diverse con 8 clienti diversi, dovete tenere sotto controllo tutto. Andate in azienda, c'è un cliente, una cosa, orari di lavoro sereni e tranquilli, alle 5 vi cade la penna. Cioè. Va bene, grazie Daniele. Grazie a voi. Andiamo grazie a pranzo.